ci sia un tempo per tutto e credo di non averlo. So perché sto qui ed il motivo non vorrei saperlo. Quando prendi a calci i doni che ti hanno fatto, non puoi pretendere rimanga tutto uguale, niente resta intatto. Salto il mio presente, cambia i volti della gente. Resta tutto fermo in una sorta di pace, di calma apparente. Nulla vive per sempre, anche se a volte apparentemente. Mi sento un unico mortale, quando io grido nessuno mi sente. Poi mi chiedo se davvero vale rischiare. La posta non è molto, ma il gioco potrebbe far male. Voglio tardi finire il foglio per scrivere il finale, magari lieto, brindando alla vita di un uomo normale. Fermami in un attimo e poi lasciami andare via. In un volo di sola poesia, fermami in un attimo e poi sono sulla mia via. Troverò la strada nella fantasia. Fermami in un attimo e poi lasciami andare via. Perché niente resterà così e io non ci resto fermo. Tutto scorre veloce, mi fermo e canto. Brividi sulla pelle, li avverto di tanto in tanto. Mi fermo sul balcone, poi come d'incanto realizzo il tempo perso, quello perso e quello sprecato in pianto. Scusate, non ho niente da dare di più, solo parole su una base e fallimenti nei momenti clou. Sono un disastro se si tratta di decisioni. Ci penso e ci ripenso e ritardo le conclusioni. Quanti treni lasciamo passare davanti a noi, cercando felicità, ma la stessa non sai più se la vuoi. Quando fai conti con ciò che avevi e ciò che resta, si fa largo, sognatori, la vera vita è questa. Fermami in un attimo e poi lasciami andare via. In un volo di sola poesia, fermami in un attimo e poi sono sulla mia via. Troverò la strada nella fantasia. Fermami in un attimo e poi lasciami andare via. Perché niente resterà così e io non ci resto fermo.